English Bit di Giulia Crivelli. Case. The case for buying your Christmas tree online. Le buone ragioni per comprare online il vostro albero di Natale. Si intitola così un lungo articolo apparso su Slate, forse la più antica rivista pubblicata esclusivamente su internet e non in forma cartacea. La parola che ci interessa è case, sostantivo, che significa sì caso, ma anche molto altro. In some cases, people have had to wait months for an appointment. In alcuni casi è stato necessario aspettare mesi per avere un appuntamento. The company only dismisses its employees in cases of gross misconduct. L'azienda ricorre al licenziamento solo nei casi di gravi malversazioni. Come in italiano c'è poi l'uso legale, a murder case, un caso di omicidio, a case of theft, un caso di furto. The case will be heard in court next week. Il caso approderà in tribunale settimana prossima. Cambia tutto quando aggiungiamo la preposizione for oppure against. The case for private school, le ragioni per le quali scegliere una scuola privata. The case against the privatization of the healthcare system, i motivi per opporsi alla privatizzazione del sistema sanitario. The report makes out a strong case for spending money on hospitals. Il rapporto fornisce ottime ragioni, strong case, per investire maggiori risorse negli ospedali. Poi ci sono espressioni che ruotano attorno a case, alcune delle quali simili alle espressioni italiane. We have two agents on the case. Abbiamo due agenti che seguono il caso. There's no point in complaining. We are leaving tomorrow in any case. Non ha senso fare un reclamo. Ce ne andiamo comunque domani, in ogni caso, letteralmente. You'd better take your keys in case I'm not home when you come back. Faresti meglio a prendere le tue chiavi nel caso io non fossi a casa al tuo ritorno. In case of fire, ring the alarm. In caso di incendio, suona l'allarme. I've made up my mind. In that case, there's no point discussing further. Ho preso una decisione. Se è così, in tal caso, non ha senso discutere oltre. Quanto alle parole composte, sappiamo che case history, termine che spesso usiamo anche in italiano, significa storia, esemplare, nel senso di resoconto della vita di una persona o di un'azienda. Case sensitive, infine, significa che bisogna stare attenti a non scambiare maiuscole con minuscole perché il computer, sensibile al carattere, non le considera allo stesso modo.